difficile, lo sai, cambiare posto. Dove so stare il tempo che mi assecondi? Rispetti i miei tempi e che gli spazi siano conclamati solo per me. Ma come sono sei? Come sono sei? Distante, distante. Ma come sono sei? Distante. Ma come sono sei? Ho sognato Giuda alle mie porte. Aveva del buon vino e quello sullo scaffale. Entra per favore, non accomodarti. Col cane che ti guarda male. Ma come sono sei? Come sono sei? Distante, distante. Ma come sono sei? Distante. Ma come sono sei? Ma come sono sei? Ma come sono sei?